Si possono fare tante cose per Battisti, anche una bella spedizione tipo Rambo 3, sgozzarlo sulla pubblica piazza, magari riportando poi la testa per regalarne pezzetti ai parenti delle vittime. E per Delfo Zorzi? Non si può fare nulla? Firmerò e manderò mail a chiunque per protesta contro la mancata estradizione di Battisti e di tutti i terroristi rossi, quando si farà qualcosa anche per avere qui i terroristi neri, cosa che fino ad ora non si è fatta e non mi sembra ci sia più intenzione di farla. In mancanza di tutto ciò, non farò un bel nulla. Divertitevi voi con Lula e compagnia. Giovanni. Lettera aperta al presidente della Francia, dottor Sarkozy, e al presidente del Brasile, dottor Lula. Noi vi rispettiamo, ma anche voi, per favore, rispettate le vittime del terrorismo del nostro paese e la giustizia italiana. Vi imploriamo di concedere l'estradizione degli assassini che godono protezione nei vostri rispettivi paesi, altrimenti i nostri concittadini, gente per bene, boicotterà i vostri prodotti e la bella immagine che oggi godete potrebbe offuscarsi per aver protetto degli assassini. Il sangue dei nostri cari non può subire tale affronto. Noi continueremo questa battaglia affinché venga rispettata e la nostra giustizia e poi specialmente il sangue innocente versato per mano di criminali che voi proteggete. Bruno. Perché non parlate mai di come la Francia tratta i suoi terroristi di Action Directe, che vengono rilasciati solo quando sono paralizzati su metà del corpo e con il divieto di rilasciare interviste o di avere contatti con la stampa? Penso che queste informazioni siano molto interessanti per i cittadini italiani quando la Francia si rifiuta l'estradizione di assassini oppure interviene in Brasile per evitare l'estradizione di Cesare Battisti. Alexander. Lettera aperta per l'ambasciatore del Brasile in Italia. Egregio ambasciatore Ademar Gabriel Bahadian, invio questa protesta come semplice cittadino italiano per l'inammissibile decisione presa dal suo governo in favore del pluriomicida Cesare Battisti, ferma restando la mia simpatia per il popolo brasiliano. Come italiano ho appreso con sommo rammarico e sofferenza la notizia da parte del governo brasiliano della mancata estradizione in Italia del pluriomicida Cesare Battisti. Fin da ragazzo, il Brasile ha sempre suscitato in me sentimenti di particolare simpatia e interesse per il suo popolo, per le sue bellezze naturali, per la samba e quindi anche per le splendide ragazze, per i suoi funambolici giocatori, in definitiva un paese che almeno ai miei occhi di ragazzo di allora, probabilmente sognante e con scarso senso della realtà, trasmette la gioia di vita nonostante la miseria delle favelas e il non sempre rispetto per gli indios. Ora, sapere che il governo brasiliano si sia preso a cuore uno spietato assassino del calibro di Battisti, impedendo che la giusta e tollerante giustizia italiana abbia corso, relegando in galera per qualche anno tale soggetto, e che i parenti delle vittime, ben quattro, abbiano la soddisfazione di vedere giustamente in parte punito chi ha sottratto loro affetti carissimi, mi riempie di sentimenti di ribellione nei confronti dei governanti brasiliani, di fatto resisi complici di un assassino. Un assassino rimane tale, qualunque sia la sua fede, anche se marxista. Vergogna, vergogna, vergogna. Augusto, provincia di Firenze. A proposito della mancata estradizione del terrorista Cesare Battisti, sono d'accordo che chi ha commesso dei crimini ed è stato accertato come colpevole degli stessi sconti la propria pena. Mi domando però chi l'abbia aiutato ad evadere. Anche chi è sottoposto a procedimenti giuridici dovrebbe sottoporsi a procedimento penale, senza creare leggi ad hoc per sgattaiolare alle proprie responsabilità. Claudio. Scrivo a proposito della puntata di giovedì scorso del programma di Michele Santoro. Premetto che non ho il televisore per scelta, quindi quando voglio vedere qualcosa vado a casa dei miei genitori che attingono alle informazioni prevalentemente attraverso uno o due quotidiani e attraverso la televisione. Non usano internet, non si interessano particolarmente di problemi di politica estera, se non per quello che viene loro propinato da TV e giornali. Non hanno contatti con palestinesi o israeliani in Italia e meno che mai conoscono persone che vivono in quei territori, come molti italiani. Giovedì sera, quindi, hanno assistito con me a Danno Zero. Risultato. Dopo un'oretta, mia madre aveva le lacrime per quei poveri bambini. e mio padre cercava di paragonare quello che avevano vissuto loro da bambini durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutti e due erano concordi nel considerare le azioni dell'esercito israeliano uguali a quelle delle SS e dei fascisti dopo l'8 settembre 1943. Allora io mi chiedo, a cosa è servito Anno Zero giovedì scorso? Gli ospiti in studio erano illustri, tutti con le carte in regola per sviluppare un dibattito capace di far capire agli spettatori qualcosa di più su quello che sta succedendo in Cisgiordania. Naturalmente, non mi aspettavo un abbraccio virtuale fra i palestinesi o pseudotali in collegamento e i pochi israeliani o ebrei presenti in studio. Non credo fosse quello l'obiettivo, anche perché era chiaro il taglio pro bambini morti a Gaza. Quello che mi ha dato particolarmente fastidio, però, è stato l'aver sprecato un'occasione per dare agli spettatori un punto di vista più acuto. È facile emozionare le persone con certe immagini, è facile tornare sempre al punto della discordia. Qui c'ero io, mi hai rubato la terra. È facile portare le persone a pensare, ok, gli israeliani hanno solo il problema dei missili Qassam, mentre i palestinesi vengono sterminati giorno dopo giorno. È facile trasformare la tragedia che si sta consumando in Cisgiordania da decenni in una lite da bar dello sport il lunedì mattina. È facile utilizzare luoghi comuni. La politica non fa niente, Veltroni andasse a Gaza, dov'è il Partito Socialista Europeo, eccetera, quando si comprende, finalmente, che la trasmissione era stata assolutamente priva di contenuti di spessore. Allora mi chiedo di nuovo, a che cosa serve? Aiuta forse a risolvere il problema? Aiuta a far vergognare gli israeliani? Aiuta a far capire qualcosa agli italiani? Aiuta a isolare Hamas? Aiuta a fermare i razzi? No. Contribuisce solo ad alimentare l'antipatia verso israeliani e palestinesi. Gabriella, Genova. Vi siete chiesti dove il governo abbia preso l'elenco degli eventuali 1.300.000 aventi diritto alla social card? Dall'INPS è stato dato l'elenco delle persone che ricevono una pensione inferiore ai 6.000 euro annui. Ma se questi hanno altri redditi, l'INPS non lo sa. È stato giusto inviare la card, così chi ne aveva il diritto, una volta inviata alla pratica, poteva utilizzarla subito. Tra i beneficiari ci saranno le povere vecchine, ma ce ne sono tante che hanno anche ben altro e fanno la parte di una vecchia signorina snob. Ricordate Franca Valeri? Anche nel 2001, quando uno dei primi atti del governo Berlusconi fu quello di aumentare le pensioni entro le 500.000 lire, ci furono questi casi, tanto che l'aumento fu dato in realtà ad un numero di persone inferiore a quelle che erano state individuate come eventuali aventi diritto. Pasquina. A proposito della social card, volevo segnalare quanto segue. Il Ministero del Tesoro ha commissionato alla Mastercard la gestione della social card, dietro il pagamento di 1,5 milioni di euro. Pertanto, bisognerebbe conoscere il contratto e vedere dove risiedano le responsabilità. Mi auguro che il contratto preveda penali per la Mastercard, in caso di malfunzionamento, e rimborsi al Tesoro in funzione dell'effettivo numero di social card che saranno messi in circolazione. Il 31 dicembre scadeva la possibilità di utilizzo dei primi 120 euro per il periodo ottobre-dicembre. Successivamente a questa data avrebbero dovuto essere state effettuate ricariche bimensili da 80 euro cada una. Quindi è possibile che il 3 gennaio, per esempio, la card risultasse scarica perché annullato l'eventuale credito precedente e non ancora effettuato il versamento successivo. La Camera ha modificato pochi giorni fa i termini di utilizzo della social card, quindi una volta che questi saranno approvati anche dal Senato, potrà essere di nuovo a disposizione il pregresso dei 120 euro non utilizzati. Agostino. Sono abbastanza indignata, perché da oggi, se non ho capito male, il tetto per percepire il bonus per i single è sceso da 15.000 euro a 9.000 euro, per poterlo alzare alle famiglie con più persone. Ora siamo alle solite buffonate, che però ricadono sui cittadini. Mio padre è pensionato, ha 86 anni, è vedovo, e non arriva al tetto di 15.000 euro annui per poco. Ma a fronte di queste nuove disposizioni, perderà i 200 euro di bonus che erano previsti sino al 31 dicembre. Evviva! Abbiamo dato ai poveri e tolto ai più poveri. Ma chi vogliono prendere in giro? Chi stanno aiutando questi politici? A noi subito ci tolgono eventuali vantaggi economici, loro però continuano a farsi e rifarsi le regole su misura. Perché non cominciano a rendere pubbliche le loro entrate con i relativi costi mensili? Ci dicano quanto gli costa l'affitto, quanto spendono per la spesa, per il vestiario, per le scuole dei figli, per lo sport, e poi li mettiamo a confronto con l'italiano medio che lavora. Troppo comodo incitarci al risparmio, ai consigli su come fare la spesa, e poi loro continuano a mangiare le fette più grosse di questa torta che si chiama Italia. Bravi! In una famiglia normale, quando mancano i soldi, la prima cosa che si taglia sono le spese superflue. Allora, perché non togliamo il superfluo ai politici? Che bisogno hanno di avere tutti quei vantaggi economici che io non so bene nel dettaglio, ma so che sono molti? Quando percepiscono lo stipendio ed eventuali rimborsi spesa con un massimale convenzionale basso, cosa debbono avere ancora? Noi ci guadagniamo il pane tutti i giorni ed i nostri datori di lavoro non ci danno il superfluo. Siamo bravi se prendiamo lo stipendio. Noi inoltre, per 5 anni di onorato servizio, non prendiamo un vitalizio. Per cui mettessero mano al superfluo e lasciassero a noi, che dobbiamo tirare a campare, almeno qualcosa di dignitoso. Perché anche i 40 euro mensili di Social Card sono un insulto. Antonella. Scrivo in relazione alle esternazioni dell'onorevole Fassino sullo scandalo dei pacchi, ovvero i quiz che regalano soldi. Mi chiedo come un personaggio di rilievo del suo calibro possa dire certe cose senza essere giudicato in maniera dura. È legittimo che chiunque possa dire quello che ritiene giusto nella vita comune, ma bisogna anche rendersi conto di quali ripercussioni ne possono derivare. Un onorevole, prima di dire certe cose, dovrebbe ricordarsi delle 600.000 macchine blu e dei 2.500 euro per cure termali di cui hanno privilegio e via dicendo. Non sono populista. Questi sono dati reali. Se io avessi espresso un pensiero simile, sarei stato bollato come un superficiale, uno che prima di parlare non pensa. Io non ho incarichi istituzionali. Lui sì. Ripercussioni sull'onorevole? Nessuna. Anzi, quando sarà il momento, sarà votato. Roberto. In merito alla proposta di innalzamento dell'età pensionabile per le donne. Io sono una donna di età matura, mamma, lavoratrice come tante, e conciliare tutti questi ruoli è davvero snervante. Per mia esperienza, le persone, uomini e donne, che sono attaccate al lavoro in modo totalitario e che esprimono entusiasmo per la proposta di alzare l'età pensionabile, sono di solito, quindi non necessariamente, persone che lavorano poco e scaricano sugli altri, non si aggiornano e non restano competitivi perché sono pieni di sé e convinti di essere sempre il meglio, soprattutto dei più giovani. Per loro il lavoro è un posto dove far passare il tempo, perché fuori dal luogo di lavoro sarebbero nullità. Non hanno altri interessi personali e si annoiano a leggere, andare a teatro, fare sport, stare con i figli, con il coniuge, con gli amici, eccetera. Ma anche occuparsi della casa, del giardino, dei genitori anziani. Avrei molti esempi da citare di persone conoscenti che continuano a lavorare, anche se sarebbe meglio per tutti se andassero in pensione. A me piace il mio lavoro, perché ho la fortuna di fare un lavoro che mi entusiasma, ma amo anche fare tutto il resto e vorrei andare in pensione il più presto possibile, per fare tutte quelle attività che mi piacciono senza dovermi alzare alle 6 del mattino, senza la frenesia della fretta, senza la sfrenata competizione. Mi sembra che da un po' di tempo sia di moda questa idea del lavoro ad oltranza. Chi non fa almeno 10 ore di lavoro al giorno è considerato un menefreghista. Si fa a gara a chi lavora di più, a chi dedica tutto il suo tempo al lavoro. Ma mio suocero diceva sempre che se lavorare era bello, lo facevano i signori. Paola. Nei primi anni 60, quando facevo l'università, una nevicata a Bologna era una festa per tutti. Per gli studenti universitari, andare a spalare la neve, con una piccola retribuzione da parte del comune, era una forma di sport divertente, che ancora adesso, da professionisti affermati, ricordano con piacere e nostalgia. La parola emergenza era quasi sconosciuta. La si usava per le grandi tragedie, l'alluvione del Polesine, la diga del Vajont. Non sarà che siamo diventati tutti dei fifoni spaventosi con l'aiuto dei titolisti dei giornali che ormai conoscono solo le parole emergenza, tregua, tragedia, incubo? Un poco di coraggio individuale non guasterebbe. Come dice una poesia di Spoon River, ci vuole vita per amare la vita. Laura, anziana realista e non nostalgica. Cara Laura, grazie mille per la sua testimonianza. In effetti, un po' di sano romanticismo e insieme la voglia di affrontare con un po' di spirito di avventura i problemi non guasterebbero in questa società così tesa all'efficienza e alla razionalità. E la ringrazio anche per il suo richiamo al senso della misura nei titoli dei giornali e nel linguaggio della radio. Come giornalisti, spesso diamo spazio agli eccessi, cercando di drammatizzare e così di creare un forzato interesse su quello che diciamo. Non è e non sarà facile, ma vogliamo credere che sia possibile creare emozioni anche guardando ai valori positivi, a quei sentimenti che fanno parte della nostra umanità e che ci aiutano, giorno per giorno, a scoprire i molti lati buoni di questa nostra società. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.